micidiale, se no facendo pasta a forno. Sono il re io. Sono il re, quando me lo chiedono apposta, oh, vai, fammi, me lo chiedono perché sai, tu la fai bene, fammi due tiri di pasta a forno, ci abbiamo questa spuntinata, questa. E allora metto per fargli la pasta a forno e la faccio io. Io faccio anche alla pescatora, quando vogliamo, faccio gli spaghetti alla pescatora con i frutti di mare. Ui, il pinocchetto lo devi dire, un paio di volte l'ha mangiato il pinocchetto. Ma cosa vuol dire a mangiarsi più di mezzo chilo di spaghetti, pinocchetto? Più di mezzo chilo se ne ha mangiato al giorno. Cioè, va bene, visto, uno c'è appetito, diceva quello. Adesso fa poco lui organizziamo qualcosa su Aussi, tutti i cibi, ha saputo il posto e vedrai che facciamo qualcosa di buono. Ci serve un cuoco, un bravo cuoco, ci serve che sappia cucinare come si deve, la carne e quello che è, e tu vedrai che ti diverti. Lo facciamo di sabato domenica, questa cosa qua. Buscate la persona, allora vediamo, a noi ci ripetiamo qualche tiro. È positivo, è positivo. Comunque la pasta lo possiamo fare tante maniere, io quando mi dedico a volte vedo certe cose e faccio di tante maniere la pasta, capito? Col tonno la faccio anche diversamente, perché col tonno ci metto tanta cipolla, olio d'oliva e con tanta cipolla lo faccio un po' arrosolare e poi devi sbattere l'uovo, tipo carbonara, metti tutto assieme il condimento, capito? Capito il condimento della pasta. Vedi quanto è buona, invece farla tipo una carbonara, no? Fare tipo carbonara stesso, invece della pancetta e il tonno. Prima così pesante, ma scherzando. Già il tonno a digerire è quello che è, se ci metti anche l'uovo e cose del genere, no. Io la mangio normale, la pasta, tu c'è un acqua buono. Meglio per te, io non ci riesco a dire una cosa così. No, no, io sono fatto, sono così, sono io la faccio e la condisco, sono anche quando facevo le zucchine, pancetta, guanciale, capito, cipolla, tutta rosolare con l'olio d'oliva e poi condisce la pasta, poco è buona, allora fai così, allora prendi i pomodori freschi, pomodori freschi, sto parlando quelli della salata, io vedo anche in primavera basta proprio se ci vuoi mettere la mozzarella gliela metti dopo se non se la vuoi mettere, se no io se vuoi faccio, io c'ho una specie di frullatore, no? Metto l'aglio, due o tre spicchi d'aglio che te la frutta, metto il basilico, l'olio d'oliva e faccio tutto e un po' di pomodori dentro e frullo tutto. Lo frullo ben frullato, gli metto un po' il sale con l'olio d'oliva e poi ne faccio altri tutti a pezzettoni di pomodori, a pezzettoni, capito, ne faccio un bel po' e metto tutto insieme, poi lo lavo a mano e a volte ci metto anche delle mozzarelle a pezzettino e mezzo, cucino la spada, per esempio le penne, ascolta il mio verso di cielo, le penne quando sono cotte prendi e le metti sotto l'acqua fredda. Quando è cotta sotto l'acqua fredda, la pasta sotto l'acqua fredda, sino che le freddi. Quando è fredda tu la rimetti nel lavamano e condisci con quella fresca, quella roba fresca così. Vedi così è abbastanza in estate buona così. Una pasta la primavera, dai, è buonissima. Perché il blocco della cottura rimane dura, ecco perché. Ok, altro e avanti. Fai girare. Non è fuggito. Chef per un giorno, ma io l'ho cucinato da tanto. Chef per un giorno. Anche per due, se per questo, sto dicendo. Sto organizzando una bella cena a Ossi, prima, anzi non a Ossi proprio, prima di Ossi, su DCB, compreso anche il padrone della campagna 3. Andiamo lì, c'è l'acqua, c'è l'elettricità con il gruppo elettrogeno, mi sembra non c'è neanche più il gruppo elettrogeno, adesso c'è l'acqua, c'è la luce normale, quindi lo tiro a lui, facciamo quello che volete voi, carne o pesce, quello che mi pare, si organizza, si prende il vino, quello che lui mette solamente il terreno, le cose, la luce, quello che è. E siamo a posto. Quando volete voi, luce disponibile. A voi del terreno. C'è il bagno, c'è tutto, quindi. Ma poi avessimo pisciato l'uvura. Io già ce l'ho domani notte, faccio una pazza, manna e piazza Sant'Antonio mio. Ho mangiato troppo anche oggi. Io ce l'ho domani una grande cena. Te lo sto dicendo, domani ce l'ho. Domani è una grande cena, domani notte. Capito, grande, proprio grande. T'ho detto cosa tutto c'è. Io lo so. Ma l'avrei fatto la verità in campagna mia, ma non va bene, perché la luce c'è. Manca solamente l'acqua e basta, capito? Comunque la luce c'è, la casetta c'è, mancano le limite tavoli, vabbè se possono scendere quello che è, ma comunque manca solamente l'acqua. L'abbatti e morire anche morto e poi i servizi igienici, se uno c'ha da fare il cocco alla pettina, non è che va in campagna, va dentro casa e fa quello che deve fare, e quindi non va bene, se no lì a Vuglia, lì in Repromotores c'è la foglia vicino, quando uno fa la fa tante 100 metri di giù. Capito perché sta scaldando così tanto questo, perché non entra il microfono lo spinotto, non lo scaldava mai questo baracchino, ed è caldo, perché ci sono 30 gradi, ecco perché, la fredda, Alessandro ci sei, avanti, è sparito, Poi se passo con l'altro, dai. Antonio si è fuggito. Un attimo che sto montando un altro microfono. Ok. Allora. Ok. Quando mi vorrei fare a te? A fatti fischi. A ottava, quanto arrivo? Guarda un po', 2, 3, 4, 5, 6. Non è stato preciso questo, te l'ho detto, devo regolarlo, c'è il potenzio di svana a pensare, ma non lo vedo oggi, sta stessa in giù, manca qualche cosa, provo a vedere Antone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado un po'. 9, 9, 5, 6. Sì, sono basso, dai. Sono basso. Non sta pompando questa antenna. Un po' basso anche questo come segnale, mi un po'. Non è preciso, mi capito, mi dà. Rimane più basso dell'altro. Io lo so. Pazienza. Mi devo accontentare quello che arrivo purtroppo. Anche perché non è che sia al 100% di tutto. La verità si dica, quando sono venuto il palo ti faccio vedere che avevo un bel forte a ottava come una volta positivo, ma ti ha baciato un vero segnale, no? Anche 4 watt quello normale, ma va bene lo stesso, non è che si passano, la verità va bene lo stesso, ti sento bene, io sono abituato a usare il 9 più che altro, no? Non è più come prima, una volta, vedi, quando venivi il sedio, attaccavo le 180 sempre fissi, ci avevo con il baracchino, quindi arrivavo un bel forte. Poi da quando ho cambiato, cioè da lì a qui, questa cosa uscivo sempre attaccato, dopodiché non mi è fregato più niente, non avrei tagliato niente sotto, perché non è più come prima la verità. Quindi se no io questo sarei stato forte, ma veramente forte, non mi è fatto più niente ormai. Positiva, se vado a bermi un po' d'acqua fresca, va, è venuto un po' di sette. D'accordo.